Job 24. Primo appuntamento della settimana con Job 24, ben ritrovati. Oggi promuoviamo noi stessi. Nell'era della comunicazione ormai a quanto pare non basta essere efficienti, produttivi, innovativi, ma occorre anche saper comunicare le nostre doti, saper fare marketing di noi stessi. Come? Attraverso il cosiddetto personal branding. Si parla di questo nella terza uscita di Master 24 Management e Leadership in edicola domani con il Sole 24 Ore e ne parliamo oggi a Job 24. Sentiamo innanzitutto cosa si intende per personal branding con Caterina Tonini, Senior Partner di D'Antona & Partners. Personal branding è un insieme di valori, competenze, visioni, passioni, caratteristiche e ricordi in genere che immediatamente chi ci sta attorno collega alla nostra comparsa fisica o anche solo virtuale. Il personal branding ancora è l'insieme delle idee, delle sensazioni, individualità e valori che una persona riesce a trasmettere attraverso le sue attività e il suo comportamento. Il tuo brand potrebbe essere definito come quello che collettivamente le persone dicono, provano o pensano su di te e sui tuoi servizi nei vari contesti della tua vita. Che tu decida di guidarle o meno, le persone si formano opinioni ed elaborano aspettative nei tuoi confronti. Fare personal branding quindi significa influenzare quelle persone rispetto alla percezione del tuo brand. Perché è importante il personal branding? Per le persone in cerca di occupazione può rappresentare un'occasione per distinguersi e far proprio un vantaggio competitivo, ma riuscire a gestire il proprio brand personale è un'opportunità importante anche per i professionisti soddisfatti della propria occupazione. Tanto più se è vero che le referenze stanno soppiantando il curriculum vitae tradizionale. A proposito di brand, sentiamo quanto conta l'immagine e il saper fare marketing di se stessi per Franca Sozzani, direttore responsabile di Vogue Italia e L'Uomo Vogue e direttore editoriale di Condé Nast. Io sono convinta che l'abito faccia il monaco, cioè assolutamente. Poi è chiaro che se tutto questo dietro al vuoto e non vale, certo. Ma se dietro anche un qualche cosa che vuole comunicare vale. Quindi l'immagine, la prima cosa che noi guardiamo in una persona è quello che noi trasmettiamo, quindi non, prima che una persona dica sì però è intelligente, però è brava, però è capace, però è una professionista, guardi come si comporta, come si muove, come si veste. Quindi questa è la prima maniera che poi in una società come la nostra, dove certo. Tutto è sulla comunicazione, tutto è sui media, tutto è sul fatto anche dell'apparire, se vogliamo. Ecco, l'apparenza sola non esiste, ma l'apparenza più la sostanza può creare un ottimo connubio. E ormai si può comunicare quotidianamente con una grande platea di persone, lo sanno bene i frequentatori dei social network come Facebook, Twitter o LinkedIn. Mezzi da sfruttare per comunicare al meglio il proprio valore? Emilio Petrone, amministratore delegato di Sisal. Ma io ritengo in generale molto utile il networking, quindi il fatto di crearsi delle relazioni con colleghi, altre persone e quindi creare una propria rete di relazioni. Poi come farlo? Io direi ognuno ha un po' i suoi modi, sicuramente il social networking è un modo utile, un modo anche molto, molto pratico di farlo. Però io volevo sottolineare che quando si parla di personal marketing, di comunicazione di se stessi, credo che la cosa più importante, come sempre, sia il prodotto e quindi sia la persona, siano le caratteristiche e le qualità della persona. Da questo punto di vista credo che il primo elemento da curare sono proprio i fatti, i risultati, il proprio approccio, il modo di lavorare in team con gli altri. E solo dopo aver dato grande importanza a questi elementi si può, insomma, chiaramente focalizzarsi sul comunicarli e sul vendersi fuori del proprio ambito. Le interviste complete realizzate da Caterina Tonini, Emilio Petrone e Franca Sozzani, le lezioni degli esperti, le testimonianze di leader e manager nella terza uscita domani di Master 24 Management e Leadership, il master multimediale del Sole 24 Ore. Ed è tutto per questo appuntamento, ci ritroviamo domani con Job 24 in primo piano professione cooperante perché le ONG hanno bisogno di questi collaboratori. A domani con Job 24.